Levati, rivestiti di luce, poiché viene la tua luce e la gloria del Signore risplende su di te. Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra e l'oscurità avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le nazioni alla tua luce e i re al tuo splendore sorgente. Volgi intorno i tuoi occhi e mira. Si sono tutti riuniti, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano e le tue figlie sono portate in braccio. Allora vedrai e sarai radiosa. Il tuo cuore fremerà e si dilaterà, poiché le ricchezze del mare confluiranno verso di te, le risorse delle nazioni giungeranno a te. Una moltitudine di cammelli ti sommergerà, dromedari di Madian e di Efa, tutti giungono da Saba, portando oro ed incenso, proclamando le lodi del Signore. Tutte le greggi di Kedar si raduneranno presso di te. I montoni dei Nabatei saranno al tuo servizio, saliranno come offerta gradita sul mio altare per abbellire il mio tempio di splendore. Chi sono quelli che volano come nubi e come colombe verso le loro colombaie? Sì, le isole mi attendono, e le navi di Tarsis in primo luogo per portare i tuoi figli da lontano con il loro argento ed oro, per il nome del Signore tuo Dio e per il Santo di Israele che ti onora. Gli stranieri ricostruiranno le tue muraglie ed i loro re saranno tuoi servitori, perché ti ho colpito nel mio sdegno, ma nella mia benevolenza ho pietà di te. Le tue porte saranno sempre aperte. Non si chiuderanno né di giorno né di notte per condurti le ricchezze dei popoli sotto la guida dei loro re. Poiché la nazione ed il regno che non ti serviranno periranno e le nazioni saranno sterminate. La gloria del Libano verrà a te insieme ai cipressi, gli olmi e gli abeti per abbellire il luogo del mio santuario e glorificare il luogo dove riposano i miei piedi. A te verranno piegati i figli dei tuoi oppressori. Si prosterneranno alle piante dei tuoi piedi tutti quelli che ti disprezzavano. Ti chiameranno città del Signore, Sion del Santo d'Israele. Invece di essere abbandonata, odiata, che nessuno visitava, farò di te un oggetto di orgoglio perpetuo, di gioia per tutte le generazioni. Succhierai il latte delle nazioni, popperai alle mammelle dei re. Saprai che io, il Signore, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, io, il Potente di Giacobbe. Invece del bronzo farò venire dell'oro, invece del ferro farò venire l'argento, invece del legno il bronzo ed invece delle pietre il ferro. Istituirò la pace come tuo magistrato e come tuo esattore la giustizia. Non si udirà più parlare di violenza nella tua terra, né di devastazione e di rovina entro i tuoi confini. Le tue mura le chiamerai salvezza e le tue porte lode. Non avrai più il sole come luce del giorno e il fulgore della luna non ti rischiarerà più, ma il Signore sarà per te una luce eterna e il tuo Dio sarà il tuo splendore. Il tuo sole non tramonterà più e la luna non si ritirerà più, ma il Signore sarà per te una luce eterna e i giorni del tuo lutto saranno compiuti. il tuo popolo, tutti saranno giusti e possiederanno per sempre il paese, germogli della mia piantagione, opera delle mie mani, per manifestarmi glorioso. Il più piccolo diventerà un migliaio e il più modesto una potente nazione. Io sono il Signore. Al tempo fissato agirò in fretta.